strada da tempo, anche solo un momento. Di notte tra il vento e il telefono spento, illusioni di un tempo che passa senza te. Un momento perfetto, l'orgoglio nel petto, te in macchina e sento il ricordo che ho dentro. Di fatto lontani ma certo resti te. Giorno e di notte, perché è facile sentirti vivere dentro di me. Sempre mia, la pioggia che batte, così piango e non mi sento solo se mi manchi tu. Colazione nel letto, uno sguardo e l'affetto, una foto che dormi e ti amo, l'ho detto, il pensiero ne vale la pena, ancora un po'. E anche se ci rimetto, ti giuro e prometto che neanche l'immenso descrive il silenzio che scende anche solo un secondo se manchi tu. Sempre mia, se tu lo vuoi, di giorno e di notte, perché è facile sentirti vivere dentro di me. Sempre mia, se tu lo vuoi, la pioggia che batte, ti aspetto, così piango e non mi sento solo se mi manchi tu.